Bene, buonasera a tutti, buonasera signore, vi porgo i saluti di tutto lo staff della Biblioteca Provinciale Claudio Augusto e questa sera siamo molto felici di presentarvi due donne speciali, una Maria dalla Veneri che sicuramente già conoscete, non ha bisogno di grandi presentazioni, e Laura Zanetti, l'autrice del libro Pativamo a marzo, e io non mi soffermerei oltre, vi darei la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce delle nostre due gentili ospiti letture e spiegazioni appunto che riguardano questo libro molto particolare e interessante. Prego. Grazie. Allora comincio brevissimamente io dicendo che prima di tutto una cosa buffa, siamo qui come in un salotto, mi fa molto piacere, il numero di grazie, questo mi fa anche molto piacere, perché questo libro vale veramente perché è un bellissimo libro. E io non sono di solito a sprecare aggettivi, perché non vale la pena di solito, ma comunque questo è un libro veramente molto molto bello, un libro di questa mia amica. Mia amica che, come lei diceva prima in un'intervista, io considero amica di sempre, cosa che non è vera, perché in definitiva ci siamo conosciute non tantissimi anni fa, abbastanza anni fa però, in una occasione straordinaria. E questa occasione straordinaria, lo era davvero, è stata la presentazione per Minghetti a Rovereto da parte di Laura Zanetti, che per me, adesso non c'è la reale, è la prosecutrice della mia amica, anche amica mia, Fernanda Pivano, che è stata un'amica carissima, morta purtroppo da parecchio tempo, con grandi rapporti anche con la nostra terra, come fuceriai, ma lei per altro motivo, perché aveva sposato Sozzas, lei, no? Era la moglie dell'architetto Sozzas, e comunque grande presentatrice, portatrice di questa fetta di letteratura americana che per me è stata l'inizio dell'iniziazione alla letteratura, per me, questo parlo di me, che è appunto questa Big Generation della quale lei poi ha portato per gli inviti in Italia. Io ho scritto che l'hai portato a Torino, che non è vero, l'hai portato a Milano invece. No, a Roma. A Roma, vai, insomma, l'ultima città vale l'altra, io sono sbagliata città, ma io sono una parcicciola, perciò va bene. Questa è stata la prima volta che ci siamo incontrati, ma poi io ho seguito le vicende, non soltanto letterarie, anche di donna di grandissima attività, e di questo, anche su questo punto sono orgogliosissima di conoscerti, Laura, e che a un certo punto non so perché stanotte continuavo a pensare, ma perché penso sempre Livia? Allora mi è venuto il Livio, perché ho capito cosa c'era nella mia zucca a far confusione, che non c'entra niente, o il tuo parente Livio Gianetti, il giornalista, ma non importa, comunque Laura, ecco, e ci siamo conosciute poi perché ho seguito la sua straordinaria attività di recupero, recupero si può dire forse la parola più giusta, di recupero del senso, oltre che della realtà, di quello che sono le malghe alpine, che secondo me è stata una delle cose più importanti che sono state fatte negli ultimi anni qui da noi, perché è proprio il recupero di queste tradizioni antiche, di questo vivere antico, di questo vivere la natura come parte di se stesso, come parte di noi stesso, la terra come una parte di noi, ecco, e questa attività che l'ha portata ad essere presidente di questa associazione fino all'anno scorso, due anni fa, ecco, appunto adesso il presidente è questo signore che abbiamo... No, Oswald è vicepresidente, vabbè, e se ho continuato è perché c'era l'Oswald, perché era l'Oswald che ti... E poi lei tutti gli anni nella libera associazione Marghieri e Pastori del Lavorai fa questo bellissimo calendario, questo è quello di quest'anno, comunque io ho anche quello degli anni passati, lo tengo sempre con molto affetto e con molta cosa. Dunque, questo è stato i primi approcci. Poi dopo tante altre cose, ma poi ultimamente questa primavera siamo adesso, l'autunno scorso in verità, mi è arrivato, ci siamo sentite, lei va e viene dall'America dove vive parte dell'anno. No. No, magari. Magari. Magari, non è vero, magari. No, no. Comunque vive una parte dell'anno. Mi darebbe 3 mesi, ma vado giù adesso una volta all'anno. Ecco, forse sì. Comunque. E dove vive una parte dell'anno, e perché ama molto, chiaramente, se no non ci andrebbe. C'è suo figlio lì. Ecco, e allora mi arriva dall'editore questo libro, appunto della Laura, e comincio a leggerlo subito. Di solito mi prendo, non so, quando mi arrivano purtroppo e per fortuna alcuni libri, abbastanza tanti libri, ma passate, mi sento lo stesso da dire. Comunque, mi arrivano, tanto subito ho visto che c'era la prefazione di un altro amico, Franco De Battaglia, e poi comincio a leggere questo libro e mi appassiono profondissimamente in questa storia. Cos'è questa storia? Questa storia è una storia che potrebbe essere la storia di molti di noi, in fondo, perché questa civiltà, e parlo proprio con la lettera maiuscola, di civiltà contadina, grossa, importante civiltà contadina che ci dà alle spalle e dei quali abbiamo tutti, penso molti di noi, degli splendidi ricordi di nonni, di bisnonni, di quello che è. Questa è una storia di 100 anni, sono 100 anni di vita, 100 anni di una famiglia, la sua, e appunto comincia con questo: partivamo a marzo, ed era un'eccezione perché marzo era molto presto. Non so se voi lo sapete, ma molti di voi lo sapranno, le famiglie che avevano malghe alte, partivano al principio della primavera con armi e bagagli, con tutta la famiglia, andavano a situarsi nelle malghe, in questo caso in una bellissima casa, non è una malga, è una villa comunque, insomma ai freschi, se vuoi una parola molto tradizionale, molto trentina in fondo, e partivano con armi e bagagli, proprio con tutte le masserizie, ed andavano lì anche quei bambini che erano liberi dalla scuola già molto presto, e tornavano a seconda della stagione da novembre a ottobre in poi. Poteva essere un autunno caldo, poteva essere arrivare molto più tardi, arrivare quasi addirittura a novembre. Allora, questa è la storia di questa partenza, è la storia di questa famiglia. È una storia scritta, è una storia illustrata, è una storia vissuta, è una storia che veramente prende nel profondo del cuore, anche perché le radici di queste storie, di questa storia, sono le radici di nuovo di moltissimi degli abitanti di questa parte del mondo, se voi volete chiamarla così, che ha queste familiarità con la parte italiana, diciamo trentina, oppure veneta, in questo caso trentina, e la parte tedesca, queste famiglie che si snodano attraverso questo rame, queste trame, queste professioni antiche del quale parla questo nonno Clemente che faceva il cromero, e questi cromeri, bellissima parola. Da quello era mio papà. Tuo papà, scusa, sbagliato. No, era maltese. Ecco, scusa. Comunque questa professione stupenda, che erano questi venditori ambulanti che andavano veramente in tutti i posti, in tutti i paesi, dei quali non è rimasto praticamente più niente, avevano sulla schiena queste cratese, che erano queste specie di zaini con il legno, come tutti quanti, non so se tutti, ma molti di voi ricorderanno. E questa epopea, questa è veramente un'epopea. Questo libro racconta la storia di questa famiglia nel suo diramarsi, partendo da episodi grandissimi, per esempio la tragedia della Grande Guerra, veramente una tragedia, da questi meravigliosi spunti paesaggistici, la montagna, l'Alpe, gli alberi, i prati, i vari lavori, e poi questa vita stupenda che era in fondo, e che ho vissuto anch'io, vecchia come sono naturalmente, ma però che ho vissuto anch'io, questa vita dell'Alpe, dove si era come bambini, si era profondamente liberi. era una vita di anche se con regole molto fisse date da nonni, genitori, zii, qui c'è una zia comunque, però molto liberi in fondo, molto liberi. Ecco, questo è più o meno il discorso del quale andiamo a parlare. Io vorrei cominciare, non mi sembrerebbe sbagliato, facendo leggere, che io non sono capace di leggere, a meno che non abbiamo un aiuto esterno, ma non l'hai mai letto, perciò ti conviene di no, faccio leggere all'autrice la prima parte di questo libro, che è proprio Partivamo a marzo. Funziona? Ce l'ho bene qua, questo? No. Sì, sì. A parte che magari parlando, leggendo un po' forte, agisco. Qua c'è questo. Sì, sì. Allora aspettiamo, facciamo così. Torniamo indietro. Prima di leggere, chiedo, raccontaci un po' la storia di questa storia. Ecco, la storia di una storia, non è detto adesso, bene, sì, ma è la storia di adesso. Funziona. No? No, beh, parlo forte, dai, che va anche meglio. Mi sentite? Se parlo forte? No. Non mi sentite? No. Beh, dai, ma era acceso, aspetta che la fai su, ma no, io non faccio magia, io faccio magie. Aspetta, fai magia. Ognuno il suo, no? Luca? No, funziona. Vabbè, dai, cerco di... Magari venite qua un po' più avanti. Ma no, ma posso spazio. Dai, c'è più parli in bordo. Allora, intanto ringrazio la biblioteca... Claudia Augusta. Cosa? Claudia Augusta. La biblioteca Claudia Augusta di Provinciale di Bolzano e Bruna, insomma, io sono proprio onorata che Bruna sia qua con me. Non sono molto informato, perciò spazio mi presenti. Bruna, lo so, insomma, è la grande storica e scrittrice... Posso dire su tirolese, trentina, su tirolese, ecco. Allora, e poi sono felice di essere qua perché Bolzano è l'altro mio luogo, se Pelve è il paese dove sono nata, Bolzano, su Gemma fai silenzio, se no mi confondi di lei. Allora, sono felice di essere qua a Bolzano perché è stata la prima città che ho conosciuto da piccola. Via Museo, la zia Laura di cui porto il nome, le cuginette, il mitico zio Dario a cui dedico tra l'altro, che era il mio zio indiretto, ma a cui dedico anche un racconto che è considerato forse anche il racconto più forte, perché questo era un zio forte, è uno zio che quando viveva lui, insomma, la felicità era assicurata, era la sua allegria era contagiosa. Magari dopo una paginetta vorrei leggere per dedicarla allo zio Dario. E dopo questo bellissimo ricordo di via Museo, dove venivano questa famiglia dei miei familiari, e ricordo sempre questo locale buio con la scaletta che scendeva giù, dove c'erano due vecchine che facevano i loacchi. Forse nessuno sa chi i loacchi li hanno inventati in via Museo, e io ho ancora questi ricordi. Del libro cosa vi posso dire? Che ce l'avevo dentro da una vita, ho 67 anni e me li porto dentro da una vita questi racconti. Però siccome sono convinta che si scriva per nostalgia più che altro, li ho quasi tutti ideati quando andavo a fare questi lunghi periodi da mio figlio, perché un tempo riuscivo anche a rimanere giù 3 mesi, e quando, insomma, partivo dal mio porto che era la Valsugana e mi trovavo in questa città così particolare, questa scandiera dove c'è tutto ma c'è anche un po' d'inferno, insomma, Los Angeles, quindi diciamo che sono nati là. Un anno mi era stato commissionato un racconto per una raccolta di memorie sulla grande inondazione del 66, e lì ho capito che per fare anche un racconto breve il lavoro è intenso quanto fare una novella, perché io continuavo a buttare giù cartelle così, senza né capo né coda, su figure della famiglia, personaggi del paese, e situazioni, ricordi dei nonni, eccetera. Perché l'idea era quella di fare una novella, ma poi ho capito che anche scrivere un racconto breve è intenso quanto una novella, perché tu nel primo paragrafo devi sapere praticamente descrivere tutto, e la struttura, il ritmo e i personaggi in particolare, anche quelli minori che non sono meno importanti di quelli maggiori, eccetera. E quindi cosa succede? Che poi due o tre anni fa, io sono crocerossina volontaria, mi mandano a fare un servizio terrificante ai mercati generali della frutta di Verona, che è uno dei più grandi d'Europa, un luogo che non saprei come descriverlo. Un girone dell'inferno. Sì, ecco, un girone dell'inferno. e lì purtroppo dovevo stare lì dalle 6 del mattino fino a mezzogiorno e le ore non passavano mai. Allora ho preso il mio computerino, ho preso questa cartellina azzurra che mi portavo sempre in California, e nel momento che decido di mettermi a lavorarci, praticamente quasi tutte le parole si erano smarrite, perché io scrivo purtroppo con, scrivevo, adesso scrivo nel computer, scrivevo con la matita. Quindi panico, insomma, ho cominciato a provare a vedere se riuscivo a recuperare qualche parola, ma non. E allora cosa ho fatto? Mi sono rimessa a riscriverli, e li ho riscritti nel giro di 6 mesi dopo che ho fatto questo servizio, insomma, li ho riscritti. E poi insomma ho avuto anche la fortuna di, cioè, viva mia madre, i miei zii, una cugina con la quale ho condiviso, e che abita a Verona, che ho condiviso molti anni di infanzia, eccetera. Insomma, era come se fosse aperto un granaio e ho continuato, e poi è diventato anche piacere, insomma, scrivere. Per me non è faticoso scrivere, è stato invece più faticoso limare questi racconti, perché ho voluto fare un lavoro di parola per sottrazione, cioè ho voluto proprio ridurre la frase, il periodo, il racconto all'osso per rendere più intenso, e di questo devo ringraziare un po' tutti i miei autori preferiti. Insomma, io sono una divoratrice di libri fin da piccola, e forse il maestro per me più importante è stato sempre Cesare Pavese, ma anche per Paolo Pasolini, cioè ridurre proprio la scrittura all'osso. E ho fatto anche un altro lavoro di pulizia, ho eliminato tutti i cliché, tutti gli stereotipi, perché noi purtroppo parliamo, almeno il 50% del nostro dire, del nostro raccontare, si parla per cliché, per stereotipi. Ne ho lasciato uno solo, che è quello che fa partire il racconto del matrimonio dei miei genitori, che trovo che sia uno dei più belli racconti del sito. L'ho scritto, non volevo metterlo, perché ho avuto un rapporto piuttosto conflittuale, soprattutto con mia madre, e quando sono riuscita a scrivere questo racconto ho addirittura anche risolto questo conflitto con mia madre, insomma è stato anche, diciamo, terapeutico questo racconto. Ecco, ho lasciato appunto un unico cliché, che è quello di Dante, visto che insomma mi sembra che sia 750 anni che era nato lo scorso anno, Galeotto fu, il racconto parte con questo luogo comune. C'è un filo rosso che attraversa tutti i racconti, che è questa figura femminile. I racconti sono pieni di presenze femminili, che è questa zia Ucci, che è questa prozia nostra, che mi ha fatto un po' da madre, insomma. Poi c'è la nonna, la quale c'è un amore sconfinato, ma la zia Ucci proprio è presente. E poi c'è dentro anche la storia della chiesa trentina, perché noi in famiglia abbiamo avuto, non so se la fortuna o la disgrazia, io direi più la seconda, di avere 8 preti in famiglia, ed è stato veramente un peso liberarci da tante sovrastrutture, insomma, che queste presenze si hanno, almeno a me hanno. Ecco, direi che, se poi magari qualcuno mi fa una domanda, questo libro l'ho dedicato a mio fratello, e ringrazio Antonia che è venuta questa sera. Che è sua cognata? Sì, mio fratellino che non c'è più, ma a cui ho dedicato questo lavoro. Ecco, ti passa la commozione, facciamo un bacio di te. Allora, un'altra cosa prima, se puoi ancora fare un piccolo. Hai fatto una scelta molto importante di fotografie, se te ne vuoi un momento sì, a parlare. Sì, sì, anzi questa era proprio la parte, forse quella che dovevo anche, di cui voglio parlare. Allora, dentro c'è una prosa fotografica, un portfolio, che è costato più quasi cercare queste foto che scrivere racconti. Allora c'è una parte molto familiare, che riguarda un po' la mia famiglia. Poi c'è una parte descrittiva di tradizione del mio paese. C'è la famiglia, che è anche la casa. Sì, la casa è Lorenzo, sì. C'è questa vecchia casa della famiglia, insomma, che era del bisnonno, diciamo, insomma, poi è passata ai nonni dei Solizzi. E sì, va bene, insomma, la Villa San Lorenzo e la Ucci sono un po' un filo conduttore un po' di tutti questi racconti, però io anche l'operazione che ho voluto fare attraverso questi 13 racconti è sì di sintetizzare 100 anni di storia della mia terra, ma anche di indurre il lettore a capire cos'era la Valsugana, perché la Valsugana non era una valle così misera e povera come l'ha sempre descritta. La Valsugana è stata la via di passaggio più importante ancora della Valle dell'Adige per i collegamenti tra Venezia, anche con oggi, tra Venezia e Nord Europa. Uh-huh. di prima una signora mia un po' intervistata, mi dicevo, passava tutto per la Valsugana, passavano le armi, il sale, i tessuti preziosi, i gioielli, poi la nafta negli anni 60, la chiamavano regina della nafta, e è passata anche la musica importante, perché Wagner ha suonato e ha scritto dei pezzi di musica in Valsugana nel Castel di Vana. E poi abbiamo avuto il grande Francesco di Castellalto, che è stato sì un despota, ma è stato un despota illuminato che ha portato molta cultura in Valsugana, ed era il signore del mio paese. E, allora, com'era la Valsugana quando io ero una bambina, una ragazzina? Era una terra sicuramente povera, sicuramente, però di una povertà dignitosa, cioè sicuramente... Non era una valle povera, perché poi c'è stata anche la grande migrazione, sì, erano costretti a migrare, ma poi quelle migrazioni del Sud America in particolare, o della Nord Europa come San Francisco, hanno portato anche economicamente una certa ricchezza, ma era soprattutto una valle ricca di salute, ricca di aria salubre. La Valsugana è stata una delle valli più interessanti per il turismo qualificato, sia della piccola borghesia, perché arrivavano da noi la piccola borghesia della Toscana e della Liguria, ma poi con Roncino Terme, con Ledico, ma soprattutto con Roncino Terme, che è ancora considerata l'acqua tra le acque migliori del mondo, è arrivava a mezza Europa, tutta la grande borghesia e l'aristocrazia d'Europa arrivava a Roncino. E pensate che questo cosa ha significato per la Valsugana? Che d'estate i contadini affittavano i loro appartamentini e andavano a dormire nei gabbiotti dei campi, e poi con quello che loro guadagnavano e con quello che guadagnavano anche dagli ortali, per esempio, perché le terme, tutti gli alberghi che giravano attorno a Roncegno, o anche a Telve, Telve aveva 5 locande, producevano. Cosa è successo? Che nel 78 arriva questa scelta scellerata della provincia di Trento, e c'è questo impianto di questa fonderia nel cuore della valle, la fonderia Leali di Brescia, e da là è stato proprio un precipitarsi anche proprio economico della mia terra. Avrà dato lavoro a 100 operai, ma cosa è costato la valle? È costato che non abbiamo più l'aria salubre, c'è la più alta concentrazione di malattie tumorali dopo, o se non con l'altra valle, che è la Val di Non, che sta pagando per la scelta fabbricistica del merificio su i suoi veleni. E quindi noi abbiamo perso la salute. L'altro dramma, una situazione sociale molto pesante, un conflitto sociale molto forte fra chi lavora dentro la fabbrica, che ormai sono pochi, e chi fuori deve subirla, perché per 30 anni praticamente hanno fuso rottami, perché non è un'acciaieria come quella di Bolzano, è una fonderia che ha bruciato e fuso per 30 anni rottami di tutta Europa senza applicare i filtri, tra cui anche purtroppo, adesso abbiamo la certezza, parti che arrivavano dall'ex Unione Sovietica radioattive. Quindi io ho voluto fare in questo portfolio un confronto fra com'era la Valsugana fino agli anni 80, diciamo, anche per il discorso proprio del paesaggio rurale, perché poi oltre al discorso della fonderia abbiamo tutta un'altra dramma dell'agricoltura ai pesticidi, perché hanno fatto questa scelta di portare un prodotto che adesso non è neanche più competitivo sul mercato, che sono i fragolai. E poi ho voluto mettere una foto di Telve, e ho scelto la meno drammatica, perché Telve è stato uno dei paesi più devastati dal primo conflitto. Ho messo due foto proprio del mio paese, e a fianco ho voluto mettere la fonderia in azione durante la notte. Ecco, quindi questo io lo considero anche un po', questo lavoro un po' una sorta di letteratura, anche, non dico di inchiesta, ma insomma di far capire che la Valsugana, che è stata devastata, che ha conosciuto più di altre valli di Trentino il dramma della prima guerra, e si meritava un destino diverso. Ecco, questo volevo anche dire attraverso questo libro. Un'altra cosa ancora piccolissima, una rappresentanza anche di questo che tu dicevi, di questa non povertà, anzi di questa ricchezza anche dei costumi delle donne, eccetera, nel piccolo museo Viole. Se c'è tutto questo museo della donna, dove ci sono tantissime cose, insomma, sì, particolari, soprattutto di gioielli e di cose così che sono, si riguardano sia l'abbigliamento ma anche e soprattutto quello che dicevi prima, e adesso è un tema che non possiamo neanche iniziare perché non c'entra, è quello della religiosità vista appunto da parte delle donne e da parte degli uomini. Ma questo è un tema molto molto ampio nel quale non mi sembra il caso che facciamo, perché non finiremo più. Ascolta, prima io avrei voluto leggere una, a me piace molto questo racconto qua, l'iniziazione della montagna da parte del nonno, perché mio nonno è stato, ma dopo faccio quello che tu mi hai suggerito, perché è stato proprio un educatore straordinario mio nonno. Ed è un racconto che io, anche se la Gemma non vuole, ma io voglio dirglielo, è un racconto che ho dedicato a una persona che c'è più con noi, che è Gemma Lanner, che insieme con Carla ha condiviso con me la mia infanzia, che è un considero proprio delle sorelle, da Gemma praticamente la mia età. Solo che è un racconto che ho volutamente scrivere in diglossico, cioè il nonno parla in dialetto ed è una parlata abbastanza stretta di telvatto, e l'altra e io rispondo in italiano. Quindi allora, Gemma, non ti metto in imbarazzo, non lo leggo, però sappi che questo è dedicato a te, tu lo sai. Allora, partivamo a marzo, e qua c'è dentro anche la Gemma, c'è dentro anche la Carla, e quindi io partirei con questo qua. Vai come vuoi, vai. Se vi sembra che non abbia abbastanza voce, allora mi alzo e vengo là in mezzo a voi, come volete. Vai. No, dopo mi emoziono magari, perché la Bruna è la sicurezza. Che bello! Oh, non me l'aveva mai detto nessuno, sì. Guarda. Allora, dai, vai lì, Laura, davvero. Allora, aspetta che mi metto sulla giacca perché comincio a sentire. Oh, meno male. Faccio il caldo della California, sono contenta. Siamo gelati come poiati. Adesso funziona di nuovo. Cara, io le faccio quando le mando. Dai, allora sto qua e lo leggo qua. Ok. Magari mi metto in piedi. Ti volevano lì, dai, mettiti lì che ti vogliono lì. Prenditi una sedia, no. Ma dai, puoi anche sederti, guarda che non diventi più grande, sai? Ormai no. Se poi qualcuno vuol leggere, per esempio c'è qui anche Giuseppe, che è il cugino, che ha una bellissima voce e che fa parte della famiglia. Non ne ha nessuna voglia, guarda, no, ti ha già detto di no. Allora, Clemente Ferrari si alzò come sempre al suono della campana della messa prima. Scese le scale, il fuoco era già acceso. Riscaldandosi le mani sopra il tepore della stufa, osservava la primavera. Sì, quest'anno si può partire a marzo. E vede anche il campionello sotto l'ortigara, mormorò fra sé. Era stato più di qualche giorno prima. Il prato davanti a Villa San Lorenzo era macchiato d'erba nuova e nel fienile c'era buona scorta di filo dell'estate precedente. Oggi vado ad accordarmi con Spagolla, disse mentre le donne di casa organizzavano i lavori. Elia Spagolla, il conducente della 14, il camioncino Fiat 614 adatto a piccoli trasporti, bussò alla porta ancora nel pomeriggio e iniziò l'elenco delle mercanzie da portare in carrello, senza proferire parola, senza carta da penna, solo con un lungo spago per misura, secondo un rito che durava da più di un decennio. Semplicemente l'epigramma di tutto sulle 10 dita. Il sacco della farina di Gran Turco macinata nell'olio del paese, la semola per le galline, la casa delle vettovaglie, quella del bestiario, quella della biancheria, una piccola botte di vino di Clinto ricavata dal campo di Castagnero, la cassa di patate, la radio di modulazione di frequenza, ma soprattutto la viaggiante, una cassa di metallo con dentro qualche segreto della luce. La voce era quella zia di cui si parlava prima, questa persona, insomma, che ci ha fatto da madre. Le uniche parole che uscivano dalla bocca di Elia Spagolla erano: quante galline, sole o con la capra? Il giorno della partenza, Elia, comunemente chiamato Bozza, sistemava il suo mezzo grigio nello spazio consortile, abbassando le pareti laterali. Uscirono tutti a salutare Lorenza Ferrari, sistematasi con i nipoti e il suo caro bassotto vicino alla viaggiante, e a due casse di legno con dentro compresse 8 galline, che per tutto il viaggio davano segno di impazienza al numero della cuccheri, la capra mocca da croce di sperazione per l'intera estate. Libera e selvaggia più di un camuscio, si perdeva nei boschi dati, così che alle 6, grido più grido meno, l'ordine era: andate a cercare la cuccheri. Ci aspettava Pupille, la grande casa tinteggiata di bianco con i balconcini verdi, la scritta Villa San Lorenzo, i caseggiati in pietra e tamaio dall'odore buono di salatico avvolto in estate da nubi di farfalle azzurre, ci aspettavano due sorti che avevano resistito alle cannonate italiane provenienti da prima luna tra il 15 e il 18, promettendo ombra da giugno e settembre all'antica dimora che i contadini del luogo chiamavano la palazzina. Ecco, fermati qui. Adesso sai che cosa? Ancora magari un pezzettino, quando tu dicevi andate a Rosario a raccogliere la farfalla, quel pezzettino della pagina di là, solo un pezzettino che presenta un po'. Sì, la sua. Sai cosa? Diciamo, però ti disobbedisco perché. Sì, fai quello che ti no, sai perché c'è dentro tutto il discorso di Remo Bonetti. Ecco, allora vai, scusa. Però io preferisco stare qua perché. Sì. Sì, stai qua, vieni qua con me. Sì, dai, se mi sto seduta, tanto vedo che riesco a leggere anche da seduta. Sì. Allora, dentro l'odore denso dell'inverno, la vecchia credenza smaltata di grigio, la stampa del bacio di Hayez, l'angoliera, la pettiniera Liberty con dipinti tra tulipani, il tavolo quadrato coperto da una tovaglia damascata, le foto incorniciate di quattro generazioni familiari, il cavallo ad ondolo di cartapesta. Insieme a loro tutto un mondo di oggetti quotidiani sembrava essere lì ad aspettarci dopo un ritardo di 5 mesi. Sì, gli oggetti, o meglio le cose di casa Ferrai, avevano un'anima, erano degli anelli materiali di continuità tra le generazioni, trasmessi dai vecchi proprietari ai nuovi, vivevano più iti. Una volta poi finita la sua funzione originaria erano pronti per altri usi, così che la scatola di caramelle Primus della ditta Pelli di Genova si riempiva di aghi, filo, forbici, quella del sigari turma che diventava custode di bottoni, come dire... Salvare le cose dall'insignificanza significa comprendere meglio noi stessi. Era bellissimo tornare alle nostre cose, quelle decine e decine di cartoline, e in un gioco sciamanico osservare il loro precario equilibrio nel sovrapporle l'una accanto all'altra per costruire casette, capanne, castelli. Quelle cartoline non erano soltanto cose, erano compagni fedeli quanto gli animali di casa o le piante che ci circondavano. Ciascuna di loro aveva una sua storia e un significato mescolati. E un significato mescolati a quelli delle persone che le avevano inviate. Ciascuno di loro aveva una storia e un significato che mescolati a quello delle persone che le avevano inviate, ricevute, amate. Ho sbagliato, era giusta prima, scusate. Comunque avete capito, vero? Insomma, erano così ricche di tracce umane che è legittimo chiedersi se gli oggetti inanimati, come le parole, possono avere una loro vita autonoma, muoversi, sentire o addirittura pensare o agire. Se lo chiede oltre a Remo Bodei pure Octavio Paz, premio Nobel di poesia. Gary Schneider, il poeta animista beatle, è così convinto che in una sua poesia fa parlare tra loro alberi e massi. Adesso posso dare la farfara? Sì. Vabbè, no, vai, poi ci siamo, sì. Vedi avanti, sì. Vai, poi degli altri facciamo qualche ispezione, sì. Poi là. E delle cose della vita farsene carico per prima era Lorenza Ferrai, affettuosamente chiamata Ucci, senza prendersi danno dava il via a un rituale che durava dal 1898 con Teresa Trentinalli e sua madre, con fuoco caldo, porte e finestre spalancate, materassi, cuscini coperti all'aria, i secchi di rame da colmare d'acqua, la pulizia della stufa della pulicine, il controllo dei danni da topi che quell'anno erano stati contenuti. In tutto questo andirivieni partivano i comandi: andate all'uscello a raccogliere la farfara. La farfara, una sorta di margheritina densamente gialla, era miracolosa per la tosse asmatica della Ucci, al pari della polmonaria, un grazioso fiorellino metà viola e metà azzurro che cresceva al limite del bosco del Porto. Se la farfara era il primo fiore di pupille, la polmonaria era la prima corolla con cui riempire i vasi, i vecchi vasi da farmacia, posti sull'altare della cappella sotto la tela del diacono Lorenzo, soprannominato da Neta Frattoni il santo della periostite per via della guancia di sinistra esageratamente gonfia. Prima della grande guerra, prima dell'incendio della casa per mano austriaca, la cappella conservava una sua ricca solennità, dal dipinto di San Lorenzo a quello della via Crucis, dall'altare con la pietra sacra e i vari paramenti. Il 24 maggio del 1915, giorno in cui l'Italia dichiara guerra all'Austria, ogni cosa materiale custodita a Villa San Lorenzo verrà nascosta nel bosco di accenti sotto un cumulo di rami d'abete. Partito da me. Ma vai avanti. A guerra terminata, tutto era scomparso, pure la campana ritrovata negli anni 40 e riportata gloriosamente a pupille grazie a Serafino Ferrai, cugino e crome del Meranese, che ne aveva riconosciuto il suono in un maso di Naturno. Dettaglio questo insufficiente per la sua identificazione, ma Clemente Ferrai, il nonno, che ricordava perfettamente la cifra posta a sbalzo sul bronzo, partì da Tebbe con due carabinieri. Arrivati in Val Venosta, il proprietario del Maso ammise che, avendo combattuto come Kaiserjäger in Val Calamento, l'aveva rinvenuta in un bosco e fatta propria. La cappella anni 50 era quindi un semplice spazio sacro, comprensivo di due inginocchiatoi, la tela del santo dipinta negli anni 30 da Giovanna Longo, un rustico altare e il suo arredo, la prima tovaglia, la seconda, il corporale dove appoggiare il calice e la patena, la scatoletta con le ostie, il purificatorio ben stirato e la mano tergi. Di fronte un'apertura dava sul prato esterno ed un'altra a mo' di balconcino di legno dipinto d'azzurro sulle pareti del piccolo salotto, sulla parete del piccolo salotto dove Teresa Trentinali e Quinto Ferrai dal 1898 all'inizio della Grande Guerra ascoltavano inginocchiati la messa mattutina officiata a turno da Don Clemente Ferrai, da Monsignor Baldi, da Don Battoclitti, dai Pari Civitelle, in seguito da qualche prete cacciatore o pescatore di passaggio come Don Vittorio Franzoi, cappellano militare della Repubblica di Salò, che più avanti negli anni 70 durante la predica inveiva contro le femministe. In tutto questo vitale trambusto di cose laiche e sacre che parlano e si caricano dell'energia, vi era un su e giù dalla scala di legno che portava al piano del riposo notturno. La stanza di Lorenza, che fu del signor zio Don Clemente, quella del fratello Clemente, quella dei nipoti con il letto alla francese e il materasso in fogli di pannocchia, aperta su un lungo corridoio per metà reso spazio sacro, in quanto sovrastava la cappella. Assolutamente proibito quindi l'uso della letta forbice perennemente chiusa e appoggiato sulla parete nord. Erano quattro semplici locali, con molte immagini sacre alle pareti e pochi arredi recuperati dalle baracche degli ufficiali austriaci a fine guerra. Come quel letto smaltato di bianco dell'ospedale da campo, e i comodini e le mensole alle pareti in abete, o certe coperte d'ortica pungenti e dure, più della sovracoperta di pelle di camoscio conciata da Albino Ecce il Caneva per la dimora estiva ricostruita negli anni 20. In ogni stanza una piccola finestra si apriva al sole che saliva dal cielo di Valpiana e albeggiava la valle. Per 8 lunghi mesi si cambiava aria all'anima, si ritornava all'erba cruda, al latte, alla scuola del bosco, al gioco a nascondino dentro le trincee della guerra austriaca, accanto a qualche elmetto gocciolante, ai prati incerati dal sole, alle nebbie, alle solitudini, alle piccole felicità del nostro primo mondo che ancora non conosceva nostalgia. Ecco, io ti batto le mani perché... Perché ti vorrei fare un spazio, vorrei leggere al zio, zio Lanner. Ecco, lo vuoi leggere tu o vuoi che lo legga la mia amica Betty? Se ti fa fatica a leggere. Allora, sì, così mi dà un attimo di rispetto. Te lo do? Vai, sì. No, perché? Sia zio Dario che insomma il zio di Bolzano è la prima volta tanto che lo leggiamo anche. Ma è anche lei la prima volta che lo legge? Anch'io la prima volta. No, no, il racconto di mio zio Dario è il primo che viene letto perché lo abbiamo già presentato 10 volte questo libro un po' nel Trentino in giro. Già non so come si dice lo zio, fluxista, fluxista? Sì, fluxista. Fluxista. Dopo spieghiamo cosa vuol dire fluxus. Dopo, è stato un flauto io, ma non c'entra, no? Vero, no? Uno strumento. No, allora, fluxus è un movimento. Ecco, allora io tutte le cose strane che ho fatto nella vita, ho collaborato per 10 anni in un archivio di avanguardie storiche, dove ho conosciuto Fellinghetti, perché non è che l'ho conosciuto così, ho avuto la fortuna di conoscere questo archivio di Verona, e dove tra le varie avanguardie ci occupavamo anche di fluxus. Allora, fluxus, ve lo spiego, è una sorta di filosofia di vita. È anche un'arte, un'avanguardia artistica dove io ve lo dico proprio in maniera molto semplice, dove un oggetto di uso quotidiano, che può essere, non so, una tazza, una camicia da notte, una pentola, lo puoi trasformare in un oggetto artistico. Da un punto di vista filosofico tu puoi trasformare in una... Si sente troppo poco. Si sente poco. Si riesce a sentire. Peccato. Lo ripetiamo dopo, allora andiamo pure già. Sì, sì, dai. Dario Lane, lo zio fluxista. No, Tom, guarda, forse va. Adesso funziona di nuovo. Sì, dai. Tutti i bambini di casa facevano a gara, dopo colazione, nel prendere possesso del battente della porta d'ingresso. Seduti ad angolo retto, con la schiena aderente a quello stipite, la giornata iniziava così. La parte sinistra del corpo rivolta all'interno della cucina, con la UC che leggeva ad alta voce la filotea dei defunti. la parte destra rivolta all'esterno, al prato, alle nuvole come lenzuola stesa al sole, al corpo asciutto dei falciatori, all'odore penetrante del loro sudore che si mescolava alle essenze del fieno. Il portale di Villa San Lorenzo diventava così il punto d'incontro sensoriale tra il nostro spazio privato e il comportamento della natura. Se poi era sabato, lo stipite significava l'attesa dell'arrivo di Dario Lahner, lo zio di Bolzano, lo zio più zio di tutti gli zii che soggiornavano a Pupille. Quando arrivava nel clima austero di Villa San Lorenzo, la felicità per i nipoti era assicurata. Aveva l'aspetto di un nobile burlone, assomigliava a Totò. Lavorava come cassiere alla City di Bolzano, amava la lirica e gli scapigliati. Era un uomo felice nonostante un'infanzia difficile. Il ricordo del padre morto su quel bastimento diretto a New York in cerca di fortuna e gettato in mare in un sacco di juta, nonostante l'arresto come militare dell'aeronautica l'8 di settembre del 43, è finito in terribile lager in Germania come raccoglitore di mirtilli rossi, funghi e patate. Arrivava il primo sabato di ogni mese il carico di giochi, aquiloni, aeroplanini, barchette, navi di legno. E tutto. Partito di nuovo, ma arrivo, eh? Non è perché sta cercando. No, è che non riesco. Eccola qua, eccola. E tutto quanto potesse essere giocato dentro il cielo, o dentro l'acqua, o dentro la bocca, come le Brooklyn, le gomme da masticare. Già, le gomme da masticare, ma solo in casa. A fare le spese era il sottotavolo completamente tappezzato di resti di ciunghe, riutilizzate quando si era a corto di quelle intonse, insieme alle resine di abete. Insieme a lui, vestito con i pantaloni alla zuava e la camicia a quadri, arrivavano pure dei sacchettini di biscotti napoletani fatti a mano da due vecchine tirolesi in quel locale buio a cui si accedeva da via Museo, dove nacquero i Loacker. Zio Dario era un fluxista del gioco, soprattutto a tavola, quando inventava cose incredibili come l'urlo collettivo. Al suo via tutti dovevano fare la loro parte, diceva chi teneva l'urlo più a lungo. Era una questione di allenamento e di astuzia. Chi partiva subito con la voce di gola era spiazzato dopo 20 secondi, chi invece si teneva dietro alla voce, gregario, alternando l'urlo tra gola e testa, aveva la meglio. Ci provava pure il nonno con la sua voce baritonale, per poi scoppiare a ridere e far squilibrare la voce di tutti. Così zio Dario fissò una regola, chi avesse riso era fuori gioco. Dalla gara la Ucci ne era esclusa, perché esperta di vive, quei richiami fatti fuori casa, in un punto preciso del prato, portando le mani attorno alla bocca per richiamare i nipoti o per salutare mattina e sera le cugine frattoni, lontane un chilometro di Nadalia. L'altra sua specialità era una sorta di teoria dei colori alla Goethe sulle cacche del cesso, ubicato vicino al bosco, lontana dalla casa. A fine pranzo teneva su di loro una disquisitoria scientifica e garbata, stabilendo con esattezza chi ne fosse stato proprietario tra un coro di risate grasse. Così che quell'elemento materioso, deposto al limite del bosco, coperto in parte con foglie di acetosa e farfaraccio, per nascondere lo sguardo altrui, perdeva ogni tabù, diventando anch'esso parte naturale del nostro quotidiano, al pari di certe scritte incise e firmate Dario Lahner sulle assi di questa rustica toilette, come Aida, dove sei? Nel CES a far tortelle. Niente male. Sopportava tutto la Ucci, tra una pietanza e i piatti da lavare, meno che il gioco del vermo. Il vermo era un possibile vermetto rimasto nei porcini cotti che Dario Lahner ispezionava al pari di un anatomo patologo. Riusciva sempre a trovarne uno, lo deponeva sul dito indice descrivendolo in tutte le sue parti anatomiche. La Ucci poteva tollerare l'analisi delle cacche, ma non quella del verme. Improvvisamente lasciava cadere ciò che teneva in mano, fosse un piatto, una posata, uno strofinaccio, e infilando la porta d'entrata si portava sul lato destro del prato vomitando tutto il pranzo, preparando la consueta vendetta per il giorno seguente. Dario non brinca, Dario non ne prende, diceva, riferendosi ai funghi. A Dario Lana veniva negata, forse anche la domenica, la sua porzione di funghi cotti per ore sul lato della stufa. Rimaneva a Villa San Lorenzo tutto agosto, lasciando i prati con i primi colchici, gli sgarasiori, come i contadini chiamavano il fiore, che stava ad indicare la fine dell'estate e la partenza dei turisti, in gran parte triestini, che alloggiavano nel piccolo albergo Calamento. Ritornava a Bolzano nella sua casa di via Santa Geltrude, al suo lavoro presso la SIP di via Parrocchia, alle letture colte, all'ascolto dei concerti di Arturo Toscanini, alle sue idee socialiste, censurate a Villa San Lorenzo, dove si leggeva l'Adige e Vita Trentina, e si venerava solo Alcide De Gasperi. Che bravo, bravissimo. Grazie. Se continui a leggere mi... sempre come vuoi. Scegli... vai tu, io la scelgo. Come si fa una volta? Siete stufi? Siete stanchi? No, ne facciamo ancora un pezzettino. Ancora un pezzettino? Signori? Ecco, allora io direi, visto che sei così brava a leggere, facciamo la Ucci. Facciamo un omaggio a questa povera zia che ha avuto. Poi tu invece finisci con sì, che a causa di amori malati e non consumati ha avuto una vita così infelice e ha deciso di fare per tutta la vita la nostra però nonostante gli amori andassero male riusciva lo stesso ad essere felice, è riuscita fino a quasi 100 anni. Allora dai, alla Ucci. Ciò fa ben sperare. Voglio sapere anch'io cosa dite di bello. Andiamo avanti? Adesso leggiamo la Ucci. Lorenza Ferrai vide la luce a Telve l'8 agosto del 1901. Nata sotto il segno del leone, piccola perché settimina e dalla salute incerta, ebbe comunque un'esistenza lunghissima e attiva. Arrivò a Villa San Lorenzo pochi giorni dopo la nascita e il battesimo, sistemata dentro un cestone sul dorso di un mulo. Ci rimase tutta una vita, a parte i mesi invernali che segnavano il suo rientro nella casa acquistata da Giovan Battista Ferrai nel 1888, quando via Facchinelli era denominata Buso della Volpe. Buso della Volpe si chiamava via Facchinelli. Nel tempo sviluppò un viso particolare, al pari del carattere, un naso importante, il labbro superiore segnato a cuore, i capelli color castano che ogni mattina attorcigliava a mo' di treccia attorno al capo come si conveniva alle donne non maritate. Una treccia superba la sua, risultato di una cura olistica settimanale fatta di lavacri con decotto di ortica ed edera. Portava addosso un vago odore di Prosacco Roberts e crema Venus che acquistava sfusa dal Rossi in corso Ausugum a Borgo. Lorenza Ferrai, per i nipoti e pronipoti, era da sempre Ucci, per via di vari passaggi del nome, Lorenza, Lorenzina, Lorenzucci, con un chiaro richiamo a Ucci, Ucci, sento odor di Cristianucci, dei fratelli Grimm. E con un ulteriore rafforzamento negli anni del terrorismo nero, con Ucci, Ucci, dov'è sa Ucci? Si alzava per prima al suono di una sveglia assordante alle 5 in punto, scivolava lungo la scala di legno come un fantasma, accendeva il fuoco, riscaldava il latte per sé per il fratello Clemente che la raggiungeva nell'ampia cucina alle 5:15. La radio onde medie era già accesa, ascoltava nel silenzio il primo giornale radio. Poi via a cucinare il pastore con le ortiche per le galline, aprire il pollaio, decidere il menù del giorno. Alle 8 precise risaliva la scala di legno, si chiudeva in camera, riempiva d'acqua tiepida 2 catini, si lavava insomma. A nessuno era concesso entrare. C'era un segreto nella sua vita, trasportato nella viaggiante da Telve a Pupille dal camioncino di Elia Spagolla, custodito in quella stanza sempre chiusa a chiave, sempre avvolta da un odore amaro, penetrante. Per sedare l'asma nel mese in cui fioriva l'aceto, ma anche lontano, il tremulo, l'abete bianco, allontano. Lontano, il tremolo, l'abete bianco e chissà quali altri arbusti, fumava lo stramonio, reperibile con ricetta medica presso la farmacia Bettagnini Borgo. Erano fortunati, non erano perseguitati per questo. Ah, evviva! L'asma l'aveva perseguitata fino alla menopausa, al pari di certi amori finiti male. Come quel Bortolotti, impiegato al catasto di Pergine, la lasciò per ritornare a Milano scrivendo a Teresa Trentinaglia: «Cara Teresina, sono spiacente di lasciare Lorenzina, ma qua giù l'aria non le confà». E pensare che avrebbe potuto accasarsi con Giusto Fedele, benestante parentiere di Telde, ma appena lo vedeva arrancare con la motocicletta saliva di corsa la scala di legno, come un capriolo saltava dalla finestra della parete a nord e si dileguava nel bosco del Port, finché Giusto non ripartiva indispettito. No, lei non aveva mai dimenticato Giovanni Loss di Caoria e il modo in cui l'aveva lasciata. Loss, soprannominato Sosele da quel burrone di Perfetto Ferrai, era arrivato in calamento come boscaiolo per la ditta di Nando Battisti. Con Lorenza era stato amore a prima vista, o almeno così lei pensava. Dopo un paio di mesi Giovanni Loss parlava già di matrimonio, di vivere con lei a pupille, non sapendo che nel testamento Don Clemente Ferrai, parlando di un eventuale matrimonio di Lorenza, disponeva per la nipote solo di una conveniente dote. Loss Giovanni scoprì la cosa all'osteria dei Masetti durante una partita alla morra. Partì ancora l'indomani senza lasciare traccia. Lorenza Ferrai aumentò considerevolmente il fumo delle sigarette e in mancanza di queste pure le foglie di cicoria, i fiori di armi essiccati al sole o la polvere di fieno erano buoni sostitutivi delle virginie. Dimagrì, tanto che la corteccia dell'arici sembrava si fosse traslata nelle pieghe del suo viso. Si consolò per un'estate con un lungo. Tentarono di maritarla con un certo Gigi Trentinaglia di Merano, soprannominato Mezzo Litro, finché un giorno, morta sua madre Teresa di infarto silente, vestì per sempre di nero, accudì il padre, generazioni di nipoti e bisnipoti. Villa San Lorenzo divenne il suo rifugio da marzo a novembre, così come la preghiera e la devozione per Sant'Antonio da Padova. Alle 9 del mattino spegneva la radio, toglieva dal cassonetto della credenza la filotea dei defunti, chiedeva suffragi baciando decine e decine di memorie. Sua madre Teresa, suo padre Quinto, lo zio parroco, la nonna Margetta Spagolla, l'amata zia Giovanna, la zia Amalia, la zia Rosina morta nel 17 di Spagnola, lo zio Dioniso Molinari morto a Salisburgo di Tisi, la zia Giacinta, le cugini Afra Baldi e Flora Fratton, gli zii Quarto, Antonio e Biagio. E tutta una filagrana di parenti passati al di là tra Prudenz e Rosenheim. Prudenz e Rosenheim, senza mai dimenticare la famiglia Gadotti di Pergine che l'aveva ospitata durante la Grande Guerra. Tra una preghiera e l'altra, con gli occhi persi nel vuoto, come in uno stato di estasi, masticava piccoli pezzi di cipolla dorata. Fa bene i reni, ripeteva, ricordando che proprio Afra Baldi, la bella cugina sposata a Giuseppe Schmidt, era morta in giovane età di nefrite. Con i nipoti era risoluta più di un'educatrice svizzera. Prima di servire loro la colazione, controllava che i letti fossero rifatti a dovere, i vasi da notte svuotati al margine del bosco e risciacquati a ruscello. Soprattutto sorvegliava la preghiera mattutina in cappella attraverso il balcone interno. Pena una colazione a base di pestarei, la minestra latina. E se qualcuno avesse osato una, non la voglio, commentava con un peremptorio: e il vuil è morto, il verbo voglio è morto. Più avanti, l'adolescenza dei pronipoti mise a dura prova i suoi principi religiosi, dopo che a Teve era arrivato Don Francesco Pedrini, convinto sostenitore della teologia della liberazione, con tutta una sua carica umana e un realismo giocoso nel dir messa. Propose infatti un giorno di organizzarla non più in cappella, ma in una piccola radura vicino a Rio Scartazza. senza paramenti o vesti sacre, senza ossie e calice, semplicemente con una pagliotta di pane raffermo spezzata con le dita mentre il gruppo intonava Auschwitz. Una bottiglia di vino rosso da condividere con tutti, i miracoli evangelici tradotti in metafore, per poi concludere la funzione con un corale "Mettete dei fiori nel vostro cannone". Parlava di Gesù come di un uomo liberato da ogni stratificazione dogmatica, di un rivoluzionario di semplicità grandiosa fondata sulle leggi della carità e sulla condanna assoluta della violenza. La UCI, armata di cannocchiale, controllava ogni minimo particolare di quel rito profano, dal pertugio della rotonda. Durante la cena scomunicò la cerimonia e le pericolose stranezze del giovane cappellano arrivato dalla Valle dei Laghi. Vuoi mettere Don Artidoro, Don Franzelli, Don Remo Pioner e le sue prediche manichee? Beata Vertu, se solo fosse vivo lo zio parroco. No, no, era proprio il caso di avvisare Don Zambra, il parroco di Tende. Ci fu un acceso battibecco con il fratello Clemente, innamorato dei nipoti e delle cose nuove della vita. Gli anni 60, dove tutto era messo in discussione e il mondo era pieno di domande, l'avevano turbata più dell'abbandono di Giovanni Loss. Viveva nel passato come in un luogo murato. Una questione di nostalgia la sua, o un mettere al riparo il proprio tavolato esistenziale dalle intemperie del presente? È un bellissimo libro, veramente. Adesso l'ultima cosa che vorrei, dopo vi lasciamo chiedere, è questa finale che secondo me è una bomba, letterariamente parlando e anche emozionalmente parlando. Beh, questo... Però mi ridai il mio libro, poi non lo parlo. Sei sicura che sia questo? No, io questo porto, ecco. No, anche a me piace molto quest'ultimo racconto, mi spiace di non avere tempo per leggerlo tutto. Questo qua è stato pubblicato 10 anni fa sull'Adige, però poi ho inserito un pezzo di diario di questo zio parroco di cui ogni tanto si parla qua nel libro, questo zio Don Clemente, perché è stato un personaggio molto controverso nella storia del Trentino. Lui era stato preso dagli italiani, era filo tedesco, per cui è stato preso dagli italiani ed è stato mandato in Italia, e in questo vagare poi era finito fino a Campobasso. Lui ha tenuto un diario che li conservo io, tra l'altro, che sono preziosissimi. Erano erano di questa misura qua, diciamo di quadernetti, sai, quelli neri con tutto il bordo rosso, no? Dove lui scriveva in maniera anche in latino, metteva delle frasi in latino, scriveva con questa calligrafia piccolissima che infatti bisogna, io adesso ho provato a vedere con delle lenti, ma qua bisogna che ci sia un grafico che li tira su, perché varrebbe la pena questi diari farli pubblicare. Allora, ho preso forse la cosa più interessante da questi diari, che però non ve la leggo perché è lunga. Cosa succede il 24 maggio quando l'Italia dichiara guerra all'Austria? Vi dicevo appunto che è stato un personaggio controverso, tant'è che è citato in vari testi di storia trentina, come appunto lui era stato preso per spia per parte tedesca contro gli italiani. Per rientrare nella diocesi di Trento, di essere riammesso alla diocesi di Trento, perché ormai era già anziano, insomma, ha avuto bisogno di tutta una serie di lettere di encomio da parte degli vescovadi dove lui passava. Tant'è che quando ero piccola, e siccome la mia famiglia ha sempre conservato tutto, non ho mai bruciato nulla, tante cose che sono riuscita a scrivere anche qua dentro, le ho potute sapere anche da tutto una valigia di lettere che ho trovato in soffitta. E mi ricordo che da piccola dicevo, chiedevo, ma perché ci sono queste lettere con questi timbri, questo timbro del vescovo, non so, di Padova piuttosto che di Firenze, eccetera. E allora mi dicevano i miei nonni, la UCI diceva, no, ma non essere curiosa, non volendo parlare di questa cosa qua, non essere curiosa, sono cose delicate. Non... Poi alla fine l'ho capito, perché l'ho saputo da grande, che ha avuto bisogno di queste lettere per poter rientrare a Trento, altrimenti era considerato quasi un disertore, insomma, questo zio, che era un uomo molto intelligente, era un prete, ma un uomo molto intelligente. Allora, questo qua. Allora, un giorno prendo e ho voglia di andare a trovare l'Oswald Tonner, che è qua con noi. Oswald, ti ringrazio di essere venuto e di aver lasciato tutti i tuoi animali al tuo maso Berger, sopra Salorno. L'Oswald è un personaggio, è un uomo coltissimo che a un certo punto della sua vita decide che vuol fare il contadino, compra un maso e al maso di Salorno apre questa sua attività molto etica nei confronti degli animali della natura. Abbiamo la fortuna nell'Agorà di averlo a partire dagli anni 90, ha tenuto Maiga Montalun, che è considerato, lo chiamano il piccolo Tibet, è un gioiello proprio nell'Agorà. Abbiamo avuto la fortuna di averlo per 15 anni, dove lui proprio ha aperto una strada su come si possa, su cosa sia l'alpeggio. Non è soltanto un luogo dove si fa buon formaggio, ma l'uomo malighese non è soltanto l'uomo che fa buon formaggio, ma un uomo che è tutto, è la natura, è il bosco, ed è anche l'uomo che può fare anche un turismo ecologico interessante. E lui ha aperto questa strada sul lavorare, perché purtroppo in Valsugana siamo abbastanza chiusi. Io allora un giorno decido di andare su per Montalun, mi fermo da Francesco Franzoi, che è l'altro maghese che c'era giù in Valpiana, e poi quando rientro alla sera scrivo questo racconto, che poi è stato pubblicato sull'Adige, perché era esattamente, era il 24 agosto di 10 anni fa, ed era i 90 anni di quando praticamente tutta la Valsugana, compreso Tebe, viene evacuato, perché cominciavano i bombardamenti sia da parte che degli stati italiani, e quindi la gente del mio paese prende una via che si chiama Via di Parise per poi collegarsi con la Matagna giù sotto, ed è un macello perché muoiono anche dei bambini, insomma un disastro. Io ripercorro quel giorno, però con un'altra, ma io però, Bruna, questo qua varrebbe la pena leggerlo proprio da qua per far capire la parte. Sì, senza la parte dello zio. Però siccome allora sì, però io a questo punto ne approfitto della tua bellissima voce, perché io so abbastanza scrivere, ma non so leggere bene come leggere. Allora guarda, leggi questo, lasci perdere quando troverai che c'è una calligrafia diversa, vedi? Cioè, lasci perdere il diario, sì, e vai avanti e finisci, così finiamo con questo racconto qua. Quindi parto da qua, poi lascio lì e poi vado avanti e finisco qui praticamente. No, tu poi lasci parte questa parte qua. La lascio, tutta questa la lascio, vado avanti di e qua. E avanti di qua. Ok, va bene. Vediamo. Allora questo lo dedico ai malghesi del Lavorai e anche a Oswald che fa con noi. Grazie. Va bene. Lavorai, la guerra era qui, è morto. Lavorai, la guerra era qui. Il 24 agosto di quest'anno sono salita a Malga Valpiana, l'alpeggio del Lavorai, che fu gestito dal bisnonno materno. Ho lasciato da poco i caseggiati quando osservo da lontano le mani di Francesco, il malghese, che mi stanno facendo segno di spostarmi più a sinistra. Mi stanno indicando il sentiero giusto per Montalun. Non ascolto né Francesco né le sue mani. Più sotto, tra il limite del bosco e l'inizio del pascolo, ho scorto una trincea lunghissima, chiusa qui e là da pietrame, addolcita da piccoli cespugli di mirtilli già maturi. C'è un collegamento emotivo, subitaneo, con un altro 24 agosto, quello del 15, quando la mia gente ebbe solo 2 ore per sgomberare il paese, o più esattamente per fuggire alla disperata tra i boschi di castagni, tra le bombe e i corpi martoriati. Mi sono seduta a raccogliere i mirtilli. Sono dolci davvero, mi sono detta, e ho pensato che per tutto c'è una catarsi, anche per le trincee. 100 anni fa, strazianti e quotidiane ferite. Ora, se esposte al sole, coperte genziane a primavera, di rododendri a luglio, in agosto di arnica e mirtilli. Seduta ho pensato a Ungaretti, all'elemento germinale della sua poesia, la trincea, appunto. Alle prime luci dell'alba, dopo una notte trascorsa nella fame e nel fango. Il mio sguardo si sposta verso l'orizzonte opposto, nel punto dove, tra un lembo di cielo e il limite del bosco, una piccola nuvola antica, la zibina, come la chiamano da sempre gli anziani, si leva dal lago di Ardemolo, più in là l'altro dei 100 laghi lagorini, il lago d'Ezze. Il mio pensiero va a Musi, a quella sua pagina di diario, una cavalcata notturna al lago d'Ezze. Durante le cavalcate notturne in montagna i cavalli si appoggiano alle briglie più del solito. Stanco, dormito 3 ore in cima fra i soldati, accanto ad un anziano cecchino, grato per il calore che offriva. Già, la guerra, di là, sul Disunzo, di qua, sulla montagna Trentina. Percorro con lo sguardo la Val Canamento. Osservo dall'alto Villa San Lorenzo, minuscolo punto bianco immerso nel verde, le maddalene, i pascoli alti e piccoli stoi, i ripari per le munizioni trasformatisi poi in fresche dispense estive per conservare il burro. Quassù tutto ciò che rimase del disastro esemplare fu riutilizzato, e non sempre saggiamente. Quasi un anticipo dello sviluppo edilizio in quota, antitetico alla cultura tradizionale, le onduline che ricoprivano le baracche militari austriache sostituirono via via le scandole, in larice, i fili spinati, le staccionate di abete. A sera faccio ritorno a Malga Valpiana. Francesco Franzoi osserva il cielo e i suoi animali. Mi parla del suo formaggio. Vieni, te lo faccio assaggiare, dice, conducendomi nel caserino. La sua voce è come quella dei vecchi di un tempo, degli ultimi anziani rimasti. Conserva, a fine discorso, un percepibile gemito soffocato, una sorta di trincea linguistica, come se l'eco di tutto quell'orrore fosse traslato nell'idioma che accomuna tutte le genti di questa terra di frontiera. Ridiscendo con dentro ancora il rumore dell'acqua che accompagna tutti i pascoli di Montalone. L'acqua assoluta e indefinibile, sola e innumerevole, costantemente in fuga, ignara dei tempi e di catture, astuta più del vento. Così la definiva Giorgio Manganelli. Entro nel bosco, anzi, nel galateo del bosco, nel suo egregio codice, proprio come nei versi di Zanzotto. Il bosco che non è mai aggressivo, che in questo lago Rai non è mai monotono e accoglie tutto, il larice e l'abete, il faggio e il maggio ciondolo, il tremulo e lontano, l'odore di resine e di muschio, le foglie verdi e quelle secche, la zona di luce e ombra, la serpe e gli uccelli. Il bosco, penso, è in natura la più alta espressione di democrazia. Il bosco sa aspettare per ricomporre tutto, anche le vecchie mulattiere, firmate 14-18, che in questo 24 agosto sembrano passaggi dolci nella storia della mia montagna. Più in basso, dove il sentiero si allarga e si congiunge alla strada di valle, nasce spontanea la domanda: ma se la guerra, se tutte le guerre, comprese quelle dentro l'esistenzialità della vita, hanno un loro riscontro oggettivo, potrà essere così anche per la pace e per il suo complesso cammino? La pace, me lo ha insegnato questo 24 agosto, non è poi così astratta. Oggi l'ho vista, l'ho toccata, l'ho udita, l'ho gustata e perfino odorata. L'ho ritrovata con gli occhi della mente. Oddio! Ti viene in commozione anche a me. Nei versi di Ugaretti e sulle chiome britanniche intatte di quelle di Zanzotto, perché non portarla giù in fondo valle? Avete mai sentito che sia emozionante questo libro? Se lei è una grande lettrice, ci piange sopra. Brava, brava, brava, brava. Grazie a Laura. Vi chiedo, se avete domande da fare adesso, veramente vi lasciamo alle domande. perché abbiamo... Non succede sempre, a volte succede, arriva così come un... Ecco, benissimo, vuol dire che questo libro arriva, sei una grande lettrice, un complimento così, Laura, credo che... Sì, infatti, sono... Ci sono alcune frasi che sono di uno straordinario assoluto, assolutamente. Vorrei chiudere con questi versi di Ungaretti. Prego. Che penso sia il più grande poeta che ha parlato di prima guerra e delle guerre in generale. Andrebbe recuperato e riletto Ungaretti. Poi Ungaretti è impossibile imitarlo, perché il passo cadenzato, il verso breve che crea Ungaretti, nasce, che poi l'ho scoperto leggendo dei saggi di critica su Ungaretti, nasce perché, tu lo sapevi, lui era nato ad Alessandria d'Egitto. E quindi lui fin da piccolo, fino a, è rimasto giù fino a 18-20 anni, sentiva il muezzin che scandiva. E quindi dicono che questo passo cadenzato sia dovuto a questo. Allora, io ho messo dentro queste brevi versi, che trovo stupendi, che sono proprio uno delle prime poesie che lui ha scritto, insomma. Era nella trincea, no? Sull'Isonzo. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. In agguato, in quella budella di macerie, ore ed ore, ho trascinato la mia carcassa usata dal fango, come una suola o come un seme di spinalba. Bravissimo.